Allora, solitamente c'è lo scambio degli anelli, c'è lo scambio delle promesse, però c'è da dire anche questo, che come famiglia a luglio abbiamo avuto l'occasione di fermarci, approfittare anche di mio fratello che è sceso dalla Svizzera, mio zio dall'Olanda, mia zia da Torino, e abbiamo avuto una cerimonia, abbiamo avuto modo anche proprio di permettere a loro di scambiare gli anelli, di pregare per loro, però non potevamo limitarci alla famiglia naturale, perché questa è la completa famiglia della coppia pastorale, e siete tutti voi. Quindi dicevo, non faremo lo scambio degli anelli e delle promesse, ma ora che vi accomodate, vorrei dare a loro parole anche per dire qualsiasi cosa che possa essere di incoraggiamento e che può essere un seme per i nostri cuori. Quindi sì, potete accomodarvi e do la parola a papà per primo. Ecco perché ci tenevamo tanto a essere benedetti dalla Chiesa. È qualcosa di speciale. Abbiamo iniziato così e vogliamo continuare in questa maniera. Era quello a cui più tenevamo, che la Chiesa partecipasse a quello che è la nostra unione nel servire il Signore. E io voglio semplicemente, anzi vogliamo semplicemente ribadire quella che è stata anche la nostra promessa, che non era una promessa vera e propria, ma un passo della parola di Dio, del Salmo 23, dove dice, certo, noi poi l'abbiamo cambiato, l'abbiamo messa al plurale, certo, beni e benignità vi accompagneranno tutti i giorni della vostra vita. E dopo 50 anni possiamo dire che il Signore è stato strafedele, se si può dire, una cosa incredibile per come Lui ha provveduto, perché noi iniziavamo insieme anche, come si dice, un tuffo nel buio, un tuffo nell'incognita, perché iniziavamo a servire il Signore da zero e Lui ha provveduto in ogni cosa, sempre. Ma non è importante quello materiale, perché appartiene tutto a Lui. Per noi è stato molto più importante vedere come ci ha sempre benedetti nei momenti difficili, anche nei momenti difficili di coppia. Momentini, forse per noi erano momentoni, però la difficoltà si affaccia sempre in un matrimonio, ma abbiamo visto come il Signore lo ha tramutato in benignità e in veramente grande bontà per noi, unendoci sempre di più, noi che siamo tanto, ma tanto, ma tanto diversi, proprio siamo diversi, proprio, cioè siamo diversi, non avrei altro appellativo da dire, ma l'unità del Signore ci ha veramente fatto vivere momenti speciali fra noi, con la Chiesa e tutto quanto Lui ci ha offerto. E noi crediamo in quello che Lui vuole di continuare a servire finché abbiamo forza nel nostro fisico e nella nostra mente, noi vogliamo servire in qualsiasi campo. Perciò non è solo la mia, come dire, promessa a mia moglie, ma è a tutti i matrimoni. Fate intervenire il Signore quando ci sono le difficoltà. Lui le appiana in una maniera, non nella maniera che noi desideriamo, ma nella maniera migliore. E servi Dio. Servi Dio in tutti i modi. Vedete quanti appelli tramite i messaggi ci vengono dati di servire Dio, di annunziare l'Evangelo, perché questo veramente è il beneficio che più grande che noi possiamo trarre e vivere. Logicamente io potrei continuare, però passo la parola a mia moglie. E questo versetto ha un'altra parte, perché dice abiteremo e noi abiteremo tutti i giorni della nostra vita. Vabbè, mo ti dico un po' imbrogliato, non va niente. Abiteremo nella casa del Signore per lunghi giorni. Questo versetto conosco così bene a memoria, perché era anche un pilastro, perché abbiamo sì visto tanti beni e benignità, la presenza di Dio nella nostra vita. Ma l'altra parte dice, ma noi abiteremo nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Questo è una proclamazione che noi abbiamo fatto quando ci siamo sposati. Abbiamo detto anche l'uno all'altro, noi insieme abiteremo ogni giorno nella casa dell'Eterno. E anche questa è una grazia, perché è una gioia, una benedizione di abitare nella casa dell'Eterno, sempre, ogni giorno, andare al nostro Padre, coinvolgerlo in tutte le nostre cose, come ha detto anche mio marito, non è sempre stato facile. Ma il segreto era andare al Signore, prendere il tempo, piangere con Lui, arrabbiarti con Lui, anche con Lui. Delle volte ho detto, Signore, qui gli italiani, poi il mio marito è peggio. Come faccio io? Sapete che cosa un giorno, delle volte il Signore mi ha detto, ah, ma il tuo marito pecca? Mi ha fatto riflettere. E ho detto, no, Signore, no. Ma io non avrei fatto mai così. Dice, allora accetta. Questa è stata una lezione che devo ancora imparare. Non siamo arrivati. Ecco che abbiamo bisogno di andare, di stare nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, fino a quando il Signore ci chiama. E questa è la nostra forza. In un salmo sta scritto, una cosa ho chiesto all'Eterno, e questo cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita. E dov'è la casa dell'Eterno? Il cielo? Dov'è la casa dell'Eterno? Lo sapete? Che Dio abita in noi? Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Se io devo cercare la casa dell'Eterno, devo cercarlo nel mio marito e devo dire, Pinù, preghi per me, non sto bene. Ma siete anche voi. Voi siete la casa dell'Eterno, non l'edificio, voi. E quando ho difficoltà, quanto è bello di poter andare o chiedere o telefonare e di dire, preghi per me. Delle volte non dico, preghi per me perché io ho, no, un posto al di sopra, sai che stai? Preghi per me. Ma questa è la nostra forza, dimorare nella casa dell'Eterno. Grazie famiglia per quello che siete per me, per noi. Amen. Amen. Vorrei invitare mia moglie. Vogliamo insieme pregare per i lunghi giorni che ancora il Signore ha da far vivere a questa coppia, a suo servizio. E il loro servizio è sempre più eccellente, non si è ridimensionato. Dena, per chi non ha compreso l'inglese, ha detto: dovreste celebrare, dovreste essere celebrati in questo giorno, non solo per il vostro matrimonio, ma per la vostra guida nella Chiesa, per la vostra guida nella famiglia. E noi questo celebriamo oggi, la guida che loro sono per tutti noi, e come lo Spirito Santo ci permette di essere di ispirazione gli uni per gli altri. Quindi vogliamo pregare, voglio invitare anche Stefano e Angela a venire qui avanti e vogliamo pregare per loro. Questo è un regalo. E mi dicono ispirato al bouquet originale del vostro matrimonio, quindi... Vogliamo pregare. Stefano, vuoi pregare tu? Gesù, grazie per questo dono prezioso che tu ci hai dato attraverso i tuoi figli, i tuoi servi. Grazie che possiamo guardare a loro e vedere la tua gloria. Possiamo guardare a loro e vedere un esempio per ciascuno di noi. Signore, li vogliamo benedire, vogliamo chiederti di dare loro la forza per poter realizzare quello che tu metti nel loro cuore. Signore Gesù, benedici Sofia nel suo fisico, nel suo corpo, che non accusi stanchezza, non accusi debolezza, ma possa essere forte e vigorosa. E possa sentirsi così per la gloria del nome tuo. Amen. Gesù, ti preghiamo di benedire Pinuccio. Signor Gesù, il meglio deve ancora venire. Quando io penso alla tua parola che dice porterai frutti nella vecchiaia, io vedo la realizzazione di questo nella sua vita. Grazie. E di questo ti ringrazio, Gesù, perché guardare lui è una speranza per ciascuno di noi. Signore, custodiscili nella mano tua e dai nuove forze, continua a dare sogni e visioni come la tua parola dice. Li benediciamo nel nome tuo, Gesù, e siamo benedetti da te attraverso di loro. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo innalzare insieme tutti una preghiera di ringraziamento, quindi puoi stendere le tue mani, prima di tutto ringraziare il Signore. È bello che possiamo onorare Dio per questo momento e poi anche benedire. Quindi facciamolo insieme ad alta voce, facciamoci sentire Chiesa. Fare grazie, grazie per questa coppia, esempio, per questi amici, e grazie per ciò che determina anche nella Chiesa, la tua famiglia, Padre. Esempi così, modelli così. Io prego che in questo momento, Signore Gesù, tu possa benedire loro per gli anni che gli stanno dinanzi, benedire anche tutti noi, Signore Gesù, attraverso il loro esempio, che possiamo proprio assimilare questa eredità, questa benedizione, che possa andare a fluire di generazione in generazione, che si possano bloccare le separazioni, che si possano bloccare, si possa bloccare la rovina del maligno, che ci possa essere matrimoni duraturi, Signore Gesù, nel tuo nome, come quello di mamma e papà. Grazie Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Che bello. Vogliamo scendere ora e lasciamo parola a Stefano per un incoraggiamento. Ehi, bacio, bacio, bacio. Mo' io vorrei che voi vi mettiaste nei miei panni. Cioè, che altro potrei dire di più interessante, più bello di quello che non abbiamo già ascoltato e di quello che non abbiamo visto? Ho scritto, vi leggo quello che ho scritto, almeno è servito a qualcosa. Ho scritto: è per me un grande onore avere questa occasione di condividere qualcosa in questa celebrazione del 50° anniversario di matrimonio dei pastori Pinuccio e Sofia. Prima di tutto desidero ringraziarvi per il vostro esempio di fedeltà verso il Signore, per la vostra fedeltà nel servire la Chiesa nel corso di questi 50 anni di matrimonio. 50 anni di matrimonio significano senza bambini, bambini piccoli, adolescenti, grandi, adesso sono arrivati a nipoti e ai pronipoti. In tutto questo arco di tempo loro non hanno smesso di servire il Signore e servire la Chiesa. Grazie, siamo una Chiesa benedetta dalla vostra presenza e dalla vostra cura. Ed è così, lo possiamo testimoniare, lo vediamo. Poi avevo scritto, forse non tutti sanno che per il loro matrimonio il versetto che hanno scelto come riferimento è quello del Salmo 23. Questo doveva essere uno scoop, però cioè, ormai lo sappiamo tutti. E quello che è scritto, loro l'hanno declinato al plurale. Certo, beni e bontà ci accompagneranno tutti i giorni della nostra vita e noi abiteremo nella casa del Signore per lunghi giorni. E abbiamo ascoltato da loro anche quello che ha suscitato, quello che ha comportato il ricordo di aver messo questo versetto come fondamento del loro matrimonio. E io credo che proprio in queste parole sia il segreto del successo del loro matrimonio e del matrimonio di ognuno di noi. Arrivare a 50 anni di matrimonio già è difficile, perché ci si ammazza prima. Non è che ci si lascia, ci si ammazza prima. Quindi, ma arrivare a 50 anni di matrimonio, a un anniversario di due lustri, non sopportandosi, o ancora peggio, rassegnandosi l'uno all'altro, ma con l'entusiasmo di vivere assieme, con la gioia di essere insieme, con la speranza che questo continui, questa è una grande benedizione. E questo, consentitemi, non è per tutti, anzi è per tutti, ma non è da tutti. Quando leggiamo le parole del Salmo 23, certo bene e benignità mi accompagneranno. Siccome l'autore, il soggetto del Salmo 23 è il buon pastore, sappiamo che è Dio, automaticamente noi pensiamo che è il buon pastore che deve provvedere beni e benignità. Avendo l'occasione di riflettere in questi giorni, mi è parso di capire qualcosa di diverso. La Bibbia dice qualcosa di diverso. Vi ricordate Adamo ed Eva? Cioè prima Adamo stava nel paradiso, dove noi vogliamo andare, lui già stava, non gli mancava niente. È andato da Dio, ha detto: io mi sento solo, non sto bene. Dio non gli ha detto: fermo, me la vedo io. Gli ha dato una moglie. E così facendo Dio ha stabilito un principio che è valido per ognuno di noi. I beni e le benignità nella coppia non li provvederà lui, ma ha dato la responsabilità al marito di provvedere per la moglie e alla moglie di provvedere per il marito. Io non ci avevo mai pensato, ma è così. Io non so quanto consapevolmente noi prendiamo questa, appunto, consapevolezza quando ci sposiamo, che da quel momento diventiamo noi responsabili di portare nella vita del nostro marito, nella vita di nostra moglie, beni e benignità. Che è diverso d'avere una bella casa, una bella macchina, una pelliccia o gioielli. è diverso, perché nessuna di queste cose è paragonabile al paradiso. Eppure in paradiso Adamo ha avuto bisogno di qualcos'altro che solo sua moglie gli poteva dare. Quello di cui tua moglie ha bisogno glielo puoi dare solo tu, che sei il marito. Quello di cui tuo marito ha bisogno lo puoi provvedere solo tu, che sei sua moglie. Ed è questo l'esempio che noi stiamo onorando nei nostri pastori, in Sofia e in Pinuccio. Cioè il fatto che hanno provveduto l'uno all'altro bene e benignità. Ed è questo quello che il Signore chiama a fare ad ogni uomo che è sposato, ad ogni donna che è sposato. Quando è successa l'ultima volta che tu hai onorato tua moglie? Quando è stata l'ultima volta che tu come moglie ti sei entusiasmata perché stava tornando tuo marito? Se non ci sono queste cose, non stai benedicendo l'altro. E questa mancanza di amore, di affetto, di complicità che sta uccidendo i matrimoni, che sta uccidendo la società. Quando Dio ha detto bene e benignità ti accompagneranno, nell'ambito di una coppia non stava pensando a quello che doveva fare lui, stava pensando a quello che devi fare tu come marito, che devi fare tu come moglie. Dice, vabbè, ma io non sono il pastore Pinuccio e io non sono neanche Sofia che ha sposato un uomo come Pinuccio. Da dove vado a prendere queste possibilità? C'è una bella notizia per te, ma anche per me è una bella notizia. Il primo versetto del Salmo 23 dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Significa che anche tu puoi dire il Signore è il mio pastore, perché il Salmo 23 non è stato scritto per un'elite di persone, per alcuni sì o per altri no. È stato scritto per ognuno di noi e ognuno di noi ha la possibilità di dire il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Allora se il Signore è il tuo pastore, nulla ti manca, non hai scuse per provvedere beni e benignità per tua moglie o per tuo marito. In Lui e per ognuno di noi ci sono le risorse per poter essere quella benedizione l'uno per l'altro. E io vorrei che questo anniversario potesse suggellare qualcosa di diverso, se è necessario, nella vita nostra. E cioè che noi possiamo dire, Signore, io come marito, io come moglie, voglio essere quella risorsa di bene e benignità per mia moglie, per mio marito. E io vorrei che noi ci alzassimo in piedi adesso e che, per piacere, se è possibile, ogni marito possa raggiungere sua moglie, in modo da essergli vicino. E io voglio farti una domanda. Vuoi prendere l'impegno di essere di benedizione per tuo marito, di essere di benedizione per tua moglie, per il successo del tuo matrimonio? Vuoi prendere l'impegno di non rassegnarti all'abitudine alla noia, ma di vivere ogni giorno della tua vita con tuo marito e con tua moglie, con entusiasmo, con felicità, con la gioia di avere l'uno all'altro, non è naturale. E noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, come abbiamo sentito. Ma se noi prendiamo questo impegno, noi possiamo confidare sul suo aiuto e fare questo per la grazia sua e per la gloria del suo nome. Io lo voglio fare per me. Io lo voglio fare per il dono che Dio mi ha dato. Se lo vuoi fare anche tu, allora unisciti alla mia preghiera. Signore Gesù, noi veniamo dinanzi a te come coppie, chiedendo l'intervento tuo. Laddove c'è abitudine, stanchezza, dove le incomprensioni hanno creato una barriera che non permette di essere cuore a cuore. Chiediamo il tuo intervento, Gesù, che il tuo amore possa spazzare via e darci la risorsa, le risorse per essere quella benedizione per nostra moglie, per nostro marito. Signore, da solo io non riesco. Per questo ho bisogno e chiedo il tuo intervento, affinché con la tua guida e con il tuo amore nel mio cuore posso riuscire ad amare mia moglie. Grazie Gesù. Grazie per il dono che tu ci fai di essere famiglia, di avere delle famiglie. E io ti prego, Gesù, che queste famiglie, le nostre famiglie, possano riflettere la tua gloria ed essere un esempio nella società che così facilmente perde i valori, possa essere un esempio di integrità, di fedeltà, di amore. Ti ringrazio Gesù, ti ringrazio ancora per i pastori Pinuccio e Sofia, per l'esempio che loro sono per noi. E noi vogliamo essere d'esempio l'uno all'altro, Gesù, per essere quella Chiesa che riflette la tua gloria. Grazie Gesù. Amen. Amen. Thank you.